Restiamo sull'Inghilterra, c'è un'interessante analisi fatta dal Guardian sul perché le inglesi sono andate fuori. In sostanza loro osservano questo. Nel 2006 l'Arsenal era arrivato in finale di Coppa non subendo gol per 10 partite. Nel 2008 lo United la vinse avendo la miglior difesa della storia della Premier. Il Liverpool di Benitez era noto per la sua organizzazione difensiva. Dopodiché, dopo questo spunto di partenza, hanno fatto un'analisi degli scontri diretti al vertice in Premier di quest'anno. Elenco: Manchester-Arsenal 8-2, Manchester United City 1-6, Chelsea-Arsenal 3-5, Arsenal-Tottenham 5-2, Chelsea-Manchester 3-3, Tottenham-Manchester City 1-5. Beh, non è male come analisi. No, non è male. L'ottimista direbbe che gli attacchi sono fortissimi. Certo. Pessimista è il contrario, e il realista probabilmente vede il bicchiere abbastanza vuoto alla parte difensiva. Secondo me basta anche vedere il livello complessivo della difesa a livello appunto della nazionale, che non ha avuto un grande ricambio dopo i fasti di John Terry e di Rio Ferdinand, che non sono degli ex giocatori ma sono in una fase decisamente calante, e quindi complessivamente mi sembra un'analisi molto molto interessante.